credi che le parole danno un senso all'abitudine, ma lo sai che in fondo non è così. Speri che le distanze siano solo qualche passo un po' più in là, ma lo sai che in fondo io sono qui. E cambierai, piangerai e volerai via come polline lasciato al vento, e tornerai, io lo so, qui da me in un giorno di pioggia fredda primavera. Oltre la notte, quando il sole verrà, si riscalderà senza nuvole all'orizzonte. Un breve istante sarà. Credi che le tue lacrime siano un chiaro segno di inquietudine, ma lo sai, in fondo non è così. E sognerai, riderai, volerai via senza un'apparente direzione. Ci sarai, io lo so, qui con me a colmare quel grido fatto di silenzi. Sogno le tue dolci labbra che scivolano lentamente su di me, e sento di nuovo un profumo che parla di te. Quando sei